La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato alla riforma del diritto di famiglia del 1975, con la quale venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi e venne al tempo stesso superata la patria potestà che è affidata ad entrambi i genitori. Ospite ai nostri microfoni il giurista Valerio Onida, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Nella lunga vicenda che ha caratterizzato l'affermazione dei diritti civili nel nostro paese, un posto di rilievo spetta senza dubbio alla riforma del diritto di famiglia del 1975. Se ne parlerà lunedì prossimo alla Camera in occasione di una cerimonia organizzata dal presidente Gianfranco Fini che rievocherà la figura di Oronzo Reale, il parlamentare repubblicano il cui nome è legato soprattutto all'approvazione delle leggi antiterrorismo di quegli anni, ma che fu fin dall'inizio degli anni 70 uno dei promotori della nuova legislazione proprio sul diritto di famiglia. Anni di grande instabilità gli anni 70, di fortissime tensioni sociali, che il paese visse sotto l'incubo del terrorismo, come sappiamo, ma al tempo stesso anni di feconda stagione riformatrice. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 viene riconosciuta la parità giuridica dei coniugi e viene al tempo stesso superata la patria potestà che è affidata ad entrambi i genitori. Tra le principali novità della nuova disciplina, l'abrogazione dell'istituto della dote, il riconoscimento ai figli naturali della stessa tutela prevista per i figli legittimi. Viene altresì istruita la comunione dei beni, come regime patrimoniale legale della famiglia. Il coniuge superstite nella successione ereditaria diventa erede a tutti gli effetti. A varare tale riforma è il quarto governo Moro, sostenuta dalla DC e dal PRI. Uno dei firmatari è Oronzo Reale, ministro di Grazia e Giustizia nei tre governi Moro dal 63 al 68, nel governo Colombo 1970-72 e nel governo Moro-Lamalfa dal 74 al 76. È la legge 19 maggio 1975 numero 151, poi ulteriormente rivista e integrata nei decenni successivi anche attraverso la legge che nel 1985 modificherà la disciplina del matrimonio concordatario e che nel 2006 disciplinerà l'affidamento condiviso. I principi ispiratori della riforma del diritto di famiglia sono in sostanza quelli della famiglia come società naturale, dell'uguaglianza tra i coniugi, della dignità e tutela dei figli naturali, oltre alla rivalutazione del coniuge nel campo dei diritti successori e la comunione dei beni tra i coniugi. Viene sancito poi il principio che dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti da allora, ciascuno in relazione alle proprie sostanze, alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Con la riforma viene previsto l'istituto della separazione, sancito dalla legge sul divorzio del 1970. Il giudice ha il compito di vigilare sulla assoluta parità tra marito e moglie. In caso di discordia, ad esempio, sulla scuola da scegliere, l'ultima parola spetta al magistrato. Una norma rivoluzionaria, come quella che abolisce la patria potestà e quella che condiziona all'accordo dei coniugi la scelta della città in cui vivere. È un diritto di famiglia che tenta di equilibrare i diritti doveri dei coniugi, alla pari, visti però dalla parte dei soggetti più deboli, la donna e i figli. Di colpo, secoli di costume patriarcale sono cancellati. L'uomo non ha più un ruolo giuridico e morale prevalente. Parità nella coppia, una conquista notevole per le donne. E con noi questa sera il professor Valerio Onida, lo ringraziamo, buonasera professore. Buonasera. Giudice costituzionale e illustre giurista che interverrà anche lui lunedì a questo convegno per rievocare la figura di Oronzo Reale e l'istituzione della legge sul diritto di famiglia. Professore, ci aiuti un attimo a contestualizzare meglio questa importante riforma del 75 nel nostro ordinamento. Quali novità, come si arrivò in fondo poi a una legge che obiettivamente ha una rilevanza storica nel nostro paese. Certo, ma bisogna ricordare appunto che quando entrò in vigore la Costituzione conteneva e contiene dei principi innovativi anche su questo terreno, basti pensare al principio di parità dei coniugi e al principio di tutela uguale dei figli anche nati fuori dal matrimonio, quelli che un tempo si chiamavano illegittimi, che adesso non si devono chiamare così. Quindi diciamo sono principi innovativi della Costituzione, però il nostro ordinamento civilistico, il nostro codice civile, il nostro ordinamento legislativo era invece rimase ancora per tempo abbastanza lungo improntato a una disciplina che era precostituzionale e che talvolta o spesso era in contrasto con questi nuovi principi. Quindi ci fu una fase per così dire di tensione durante la quale quando intervenne la Corte Costituzionale a partire dall'anno 1956 vennero delle pronunce che talvolta aprirono la strada anche alle riforme e poi arrivò il legislatore, nel 75 arrivò il legislatore che fece, diciamo, non solo diciamo, cercò di adeguare la legislazione civile ai nuovi principi costituzionali e fece anche tesoro delle pronunce che nel frattempo la Corte Costituzionale aveva emanato. Ecco, questo certo. Dal punto di vista storico, questo, gli anni 70 sono gli anni del disgelo costituzionale, come si disse, cioè mentre per il primo decennio la Costituzione rimase non nella sua parte organizzativa, ma soprattutto nella sua parte relativa ai diritti, come si diceva, congelata, nel senso che non vi corrispondeva né come dire, né la cultura diffusa, la cultura giuridica diffusa e nemmeno la legislazione ordinaria. Invece con gli anni 70, a partire dall'avvio del centro-sinistra e poi appunto, soprattutto negli anni 70, si ebbe questo disgelo costituzionale, sono gli anni in cui si fece lo statuto dei lavoratori, sono gli anni della riforma dei diritti di famiglia, gli anni della riforma sanitaria, insomma sono certo. Anni in cui, come si ricorda, molte cose avvennero nella nostra legislazione, fu un tempo di grandi innovazioni. Di grandi innovazioni, professore, anche perché appunto alle volte si tende a sottovalutare un fatto, cioè alle innovazioni giuridiche si arriva anche in virtù come dire di un movimento di opinione anche di istanze che vengono dalla società che in qualche modo il Parlamento il legislatore recepisce certamente, non so, si può ricordare per esempio proprio per la materia del diritto di famiglia nei primi anni dopo la Costituzione i principi nuovi della Costituzione non erano forse nemmeno tanto recepiti nella cultura diffusa, tant'è vero che ad esempio tutti si ricordiamo che all'epoca il codice penale prevedeva il diritto di adulterio solo nel caso della moglie, non del marito, e questa disuguaglianza di trattamento per un po' di tempo non venne sentita come un vulnus, addirittura in un primo momento la Corte Costituzionale ritenne non fondata la questione, dopo pochi anni la stessa Corte invece dichiarò l'incostituzionalità, per dire che c'è anche un cambiamento in questa materia, soprattutto un problema di cambiamento culturale. Certo. E appunto in quegli anni si avvenne diciamo impetuosamente, potremmo anche dire, bisogna ricordare che ci fu il 68, ci fu tante cose, insomma l'Italia è cambiata in quegli anni, la cultura diffusa è cambiata. Dal punto di vista sociale, professore, si può dire che con il nuovo diritto di famiglia si superò in via definitiva un modello anche di tipo sociale basato sul patriarcato, cioè quindi sulla preminenza della figura come dire, del pater familias. Certamente c'era l'idea proprio del marito capo della famiglia, che era proprio l'espressione usata dal codice civile vecchio e che venne superata con la riforma del 75, era quella, una famiglia su modello autoritario in cui il padrone era il marito, la donna era sottoposta e i figli erano sottoposti a questa potestà. Anche dal punto di vista delle norme relative alla successione ereditaria, mi sembra che il diritto di famiglia innovò non poco. Beh, là appunto soprattutto per il fatto dei figli nati fuori del matrimonio, che nel vecchio sistema avevano una posizione deteriore anche dal punto di vista successorio, non solo dal punto di vista successorio, mentre con la riforma appunto si realizzò per la prima volta, si attuò il principio costituzionale che prevede una tutela pari sociale e giuridica dei figli qualunque sia che essi siano nati nel matrimonio o nati fuori dal matrimonio. Un'ultima domanda, professor Onida, nel corso degli anni successivamente al 75 poi si è intervenuto più volte ancora su questa materia, certo. L'impianto però del nuovo diritto di famiglia è rimasto sostanzialmente quello? Sì, sì. Ecco. Ci sono state ulteriori evoluzioni, certo, anche ulteriori pronunce della Corte Costituzionale, non so, ricordiamo sì. materia di cittadinanza, l'acquisto o la perdita della cittadinanza per matrimonio, per esempio, per dire, ma l'impianto fondamentale è rimasto quello della legge del 75. Grazie professore, buona serata. Prego. Grazie, buonasera. Arrivederci.